啊。汛期将至，提醒您及时关注天气预报和汛期预警。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。 Adios! io mi sento dopo per la patata e fai la prima ma non tu mai Quel uomo orrendo avea lasciato sul Sia dunque, signore, le macchie vermiglie guidano un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Ma perché starmi impugno? A terra stava. Solo colpo esplose, apparteneva il conte. Sì, inerme non usciva, poiché era minacciato. Minacciato? Minacciato? Qual figlio al generale nostro capo? È un nichilista. Fate gli appunti. Fu preso da una vecchia in affitto. Silenzio! Rida! Padiglione fu preso da una vecchia. Una vecchia? Una vecchia oggi recò una lettera al conte. E questa lettera? È in quel casetto. Il figlio, il fidanzato mio. altra volta quell'uomo vedesti sì, il suo nome non lamento vicino provo sforzati cerca cerca sciocco e subito il momento di un giorno forse è giorno di Natale non sono da solo loco con colonna seguono dall'una all'altra stanza lo cercano prendetelo l'ombre si sono riunite l'han preso signora la rivedo Thank you. mezzo un bisticcio. Principessa, ci fate languir. Thank you. Russia. Partite! A mezzanotte! Venga domani! Noi verremo allora! Addio! Addio! Risponde, sì, terrò. Il ballo è il cognac dell'amore.